9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Buongiorno cari ascoltatori, ma a proposito di zoo comunale, ma mi dite che paese è quello in cui non si riesce a capire neanche se ai vertici della polizia si truccano gli appalti e se il vice capo della polizia, di fronte a lettere in cui si descrivono appalti in cui i capi della polizia prendono i soldi, il ministro dice no, io respingo le accuse, tu resti in carica, perché mica si può arrendersi di fronte a lettere anonime. Ma qua si tratta di magna magna, i capi della polizia, ma che paese è questo? Si potrebbe andare tutti quanti, era che primavera. A proposito di primavera, Marcello Sorgi sulla stampa oggi ci spiega che cosa cambia se cambiano le regole sulla legge elettorale. Allora dice, in parole povere, questa è pagina 10 della stampa, si arriva a una nuova legge elettorale, quindi c'è un proporzionale, leggo testualmente, Casini guiderà il centro e solo dopo il voto negozierà un'eventuale alleanza con la sinistra. Se invece resta il Porcellum, Casini farà l'alleanza con la sinistra. Perfetto, non vedo la differenza, perché bisogna cambiare la legge elettorale? Se questa è tutta la sostanza della cosa, c'è un'unica alleanza possibile in Italia, andiamo tutti con la sinistra. E naturalmente legge elettorale, non legge elettorale, questo sarebbe il partito dei contenuti, il nuovo centro della società civile. Mi scappa da ridere. Tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. A proposito del vengo anch'io, torniamo ancora una volta sulla vicenda di Ingroia. Me ne vado, non me ne rivado, non faccio politica, sì, sono di sinistra, ma mi ha deluso. Il deposito, potete leggere molto diffusamente su Il Fatto, il deposito di questa conclusione dell'indagine pubblici ministeri di Palermo sulla trattativa Stato Cosa Nostra, che finì con le garanzie di Berlusconi. Mi sembra una riscrittura della storia, ma è molto interessante vedere che su queste basi Ingroia l'ha detto, tornerà molto presto e farà politica. Viva l'indipendenza della magistratura! Tutti è una cosa normale, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? A proposito di crisi, ci avviciniamo al tema del giorno, ma insomma l'ultima pillola del giorno, apertura del Corriere della Sera, ora meno tasse sul lavoro, entrate tributarie meglio del previsto, più 3,8%, naturalmente uno potrebbe dire le cose vanno male, scende il prodotto, scende il reddito, scendono i consumi, ma lo Stato è meglio che aumenti le entrate tributarie, già, peccato che sia una delle vere ragioni per cui naturalmente il PIL poi va così male. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Allora, un caro saluto a tutti coloro che ci seguono in diretta questo martedì 6 novembre, sono le 9:15 minuti 47 secondi, oggi Sant'Emiliano, non so se sia l'Emiliano sindaco di Bari, per alcuni quelli di tradizione rivoluzionaria Emiliano Zapata, no, quello non era santo, quello era appunto un rivoluzionario, ma invece auguri a tutti quelli che si chiamano Emiliano. Allora, cominciamo oggi, il tema della giornata sono appunto le rettifiche delle previsioni di crescita italiane, e sono rettifiche importanti per l'anno in corso e soprattutto per l'anno a venire, ma tentiamo di parlare solo di numeri e di capire una cosa. Allora, qualche tempo fa, da qualche tempo a questa parte, il governo ci aveva, diciamo così, abituato a essere più attenti a dei segnali che bisognava cercare di scorgere, di interpretare nel cuore, nella pancia dell'andamento dell'economia italiana, e per ricordarvi di che tipo di segnali fossero, ecco le parole con cui il Presidente del Consiglio Mario Monti accennava al fatto che ci fosse una luce. Molto dipende da noi, dal nostro atteggiamento, dalla nostra persistenza a fare ancora un cammino di strada che comporterà ancora qualche sacrificio, ma credo che la luce che c'è alla fine del tunnel cominci a penetrare il buio del tunnel. Ecco, la luce e il tunnel sono da sempre una delle immagini ricorrenti quando si tratta di dare speranza, per così dire, sul fatto che si sta facendo un pericoloso tragitto pieno di sacrifici, perché lo Stato ha sbagliato in precedenza. Lo Stato sbagliato in precedenza, secondo me il mix di politica economica continua a essere contrassegnato da delle cose che andavano cambiate, ma questo è il mio giudizio personale. Però Mario Monti e anche componenti del suo governo come Corrado Passera dicono: guardate che ci sono dei segnali positivi, tutto questo porta a delle buone cose. Nel frattempo il paradosso di un paese che perde più punti di prodotto della Spagna, pur senza avere una disoccupazione di molte volte superiore alla nostra come quella spagnola, e senza avere molti punti di PIL, di bolla immobiliare da smaltire negli asset liquidi delle banche come la Spagna, è un punto paradossale, perché dovrebbe interrogare sul fatto che il tipo di manovre con cui noi abbiamo affrontato la necessità doverosa del rientro della finanza pubblica italiana ha un effetto sull'andamento dell'economia reale, sul prodotto e sul reddito, che ci rende ancora una volta anomalia, cioè che conferma al ribasso il fatto che noi da molti anni stiamo andando peggio degli altri paesi nostri partner e concorrenti, sia quando le cose vanno bene sia quando le cose vanno male. Ma in questa eurocrisi, con paesi che hanno fortissimi bolle da correggere o che hanno mentito in maniera molto più rilevante della nostra come i greci, o che hanno problemi di bolle immobiliari come Irlanda, Portogallo e Spagna, eppure noi andiamo peggio tranne la sola Grecia, e allora ci sarà da interrogarsi su questo. Ci interroghiamo oggi su questo perché ieri l'Istat ha diffuso una nota sulle prospettive dell'economia italiana nel 2012 e nel 2013, che appunto compie analisi e dati alla mano, quindi non con coloriture impressionistiche sui tipi di luce al fondo del tunnel, se siano un nuovo treno in arrivo contro di noi o se siano la luce, ma dati alla mano compie una correzione significativa rispetto alle previsioni sul tasso di crescita 2012 e 2013 che erano state avanzate a metà dell'anno in corso, e quindi il tasso di crescita del PIL italiano è stato rivisto dall'Istat al ribasso per 8 decimi di punti nel 2012 e di un punto percentuale nel 2013, quindi come vedete una correzione importante al ribasso. E allora abbiamo con noi il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, che saluto e ringrazio. Buongiorno presidente. Buongiorno. Perché proprio qualche settimana fa io mi ero fatto vivo con lui dicendo: ma questa, i segnali sui quali interrogarsi di positività, cioè in altre parole la decelerazione del tasso di caduta, ecco perché di questo bisogna trattare, non si può certo trattare di un'inversione di segno, quanto sono in condizione di rafforzarsi? Questa era stata la mia domanda allora. Ecco, al netto dell'andamento della domanda estera, per il momento stiamo ancora parlando di qualche segnale di rallentamento, ma del tasso di caduta, è così o non è così? Sì, effettivamente nei prossimi trimestri il profilo del prodotto interno lordo dovrebbe appiattirsi, cioè la caduta dovrebbe sostanzialmente interrompersi verso il primo trimestre del 2013, e poi tra il secondo e il terzo trimestre del 2013 potremmo nuovamente avere un leggero aumento del PIL in termini congiunturali, cioè sul trimestre precedente. Se poi anche ipotizziamo, come noi al momento prevediamo, un recupero nella seconda parte del 2013, questo recupero è limitato e quindi non è sufficiente a determinare un segno positivo per l'intero anno 2013. Quanto al 2012 invece, se andiamo a vedere al reddito delle famiglie, le spese in consumi, e qui dal punto di vista delle storie storiche italiane siamo in presenza di dati molto pesanti. Effettivamente i consumi hanno avuto una correzione a ribasso molto forte. Qui, a mio parere, entra anche la psicologia. Vorrei ricordare che negli anni 2008-2009, quindi gli anni della crisi più intensa, L'Italia, unico paese tra i grandi paesi, ha visto aumentare la propensione al consumo invece che quella al risparmio. Perché questo è rilevante? Perché tipicamente, ci dice la teoria economica, che quando aumenta l'incertezza io dovrei tendere a risparmiare di più per mettere fieno in cascina per i tempi bui che stanno arrivando. Invece gli italiani hanno aumentato la propensione al consumo, cioè hanno speso di più, e la teoria economica ci dice che questo avviene quando io penso che la crisi sia di breve durata, proprio perché vuol dire che poi riuscirò a ricostituire il risparmio decumulato. Io credo che l'anno scorso gli italiani abbiano fatto una doccia di realismo, per così dire, e si siano resi conto di del fatto che la crisi non è temporanea, e questo ha determinato una sovracorrezione del consumo, e siamo adesso molto più in linea con quello che ci potevamo aspettare di fronte a una crisi così lunga. Naturalmente la domanda è se gli italiani, chi può naturalmente, perché molti non ci riescono, risparmiano di più, questo non fa altro che far cadere la domanda di consumo e quindi innesca un circolo vizioso. Come spezzare questo circolo vizioso credo che sia oggi il tema chiave per avere aspettative di crescita più elevate. Ma quando, sia pur di poco, ci sono l'andamento dei consumi in senso negativo, come compressione, come diminuzione in termini reali, supera l'andamento in termini reali negativi del reddito disponibile delle famiglie, cosa che anche questa è un po' un'anomalia. Di solito in molti paesi avanzati la diminuzione dei consumi rispetto alla diminuzione del reddito disponibile ha un'elasticità inferiore all'unità. Cosa vuol dire? Vuol dire che la gente tende per un po' di tempo a consumare più di quanto perda reddito disponibile, cioè c'è un effetto ritardato in questa percezione per cui si tende per un po' a consumare di più. Da noi quest'anno sta succedendo il contrario. In questa contrazione dei consumi superiore alla diminuzione del reddito disponibile di famiglie, ed entrambi con una cifra superiore almeno 3, conta la paura per quello che quest'anno ha rappresentato, non lo so, gli IMU, gli esodati, eccetera, eccetera, che hanno rappresentato una voce pesante nella perdita di fiducia delle famiglie italiane, l'indicatore che l'Istat rileva sulla fiducia delle famiglie, o è invece una correzione dell'eccesso di consumi, come diceva lei? Perché stimare quanto sia l'una e quanto sia l'altra, dal punto di vista così dell'effetto politico, di chi deve tentare di creare una fiducia e un'aspettativa prima ancora che nel merito dei provvedimenti, non è così secondario. È una correzione di un comportamento precedentemente sbagliato o è l'intervento di un atteggiamento psicologico, come rilevato sembra dai vostri indicatori di fiducia delle famiglie? Io credo che ci siano ambedue i fenomeni. Altri indicatori ci dicono che la quota di famiglie che decumula risparmio o addirittura che si indebita per sostenere livelli di consumo desiderati è ai massimi storici. Vuol dire che tante famiglie sono veramente in difficoltà. Ricordiamo che il tasso di risparmio è sceso all'8%, cioè un livello straordinariamente basso sia per gli standard italiani sia a questo punto per le comparazioni europee. Credo che quindi ci siano ambedue i fenomeni. Il primo, quello di natura psicologica, è scattato chiaramente a partire dall'estate 2011, cioè quando lo spread è diventato quello spauracchio che per mesi e mesi, per un anno, abbiamo avuto ogni giorno costantemente sui mezzi di comunicazione. Ma d'altra parte è anche vero che per molte famiglie la riduzione dell'occupazione, la riduzione delle retribuzioni reali, ricordiamo che la dinamica retributiva è per vari anni inferiore a quella dell'inflazione, e beh, questa cosa morde sui bilanci delle famiglie. La vera domanda quindi è se anche nel 2013 recupereremo, ancorché lentamente, la crescita, quanto tempo passerà perché questo avrà effetto sull'occupazione e quindi sul reddito disponibile delle famiglie? Abbiamo visto in questi mesi che l'occupazione è caduta meno della produzione perché i buffer, diciamo gli elementi come la cassa integrazione o la riduzione delle ore lavorate, hanno protetto molti occupati. Il dato di settembre dell'occupazione invece è particolarmente negativo e noi infatti nelle nostre previsioni prevediamo che anche in presenza di un recupero nel 2013 dell'attività economica, soprattutto nella seconda parte, avremo un effetto ritardato sull'occupazione. Quindi quindi purtroppo sulle famiglie ci sarà una prospettiva eventuale di crescita del reddito disponibile appunto ritardata. E tant'è che voi dite il tasso di disoccupazione continuerebbe a salire fino all'11,4%? Esattamente, anche perché negli ultimi mesi abbiamo visto un fenomeno particolare, e cioè si sono ridotti notevolmente i cosiddetti inattivi, cioè coloro i quali stavano fuori dal mercato del lavoro non cercando lavoro, e tra questi rientravano anche gli scoraggiati, che tipicamente in una fase recessiva non si mettono neanche a cercare lavoro. Bene, in questi ultimi mesi invece abbiamo visto una riduzione forte dell'inattività, cioè molte più persone si sono rimesse alla ricerca del lavoro. E questo è un segnale probabilmente della difficoltà forte di tante famiglie. La riduzione dell'occupazione, per esempio, dei padri o delle madri può aver spinto dei giovani che magari erano precedentemente scoraggiati invece a presentarsi sul mercato del lavoro. Allora, due altri punti, perché c'è naturalmente, questo è confermato anche da le indagini che rilevano gli imprenditori interpretano l'andamento degli ordinativi e così via. Da una parte la componente della crescita che si conferma in grado di fare più dell'output potenziale del nostro paese è quella agganciata alla domanda internazionale, quindi qualche considerazione su questo. Poi però le devo chiedere anche qualche considerazione sul fatto che noi, malgrado la crisi, la riduzione del prodotto, tutto quello che sta succedendo, non riusciamo in realtà ad aggredire seriamente mai quel differenziale di andamento dei prezzi al consumo e di inflazione, che è un altro degli indicatori di lungo periodo di inefficienza dell'economica generale del nostro paese. Allora cominciamo dalla domanda internazionale. Quanto può andare avanti da un punto di vista interpretativo, così dire, il nostro modello su meno di un quarto del PIL orientato all'export, che fa il più del prodotto potenziale possibile, per così dire, dà l'apporto più significativo alla crescita del paese rispetto ai due terzi del mercato domestico su cui si addensano invece i colpi più pesanti della crisi? Ma prendo soltanto un dato, negli ultimi sei mesi, o meglio nei primi sei mesi del 2012, con tutte le difficoltà che abbiamo ricordato un attimo fa, bene, più della metà degli esportatori in Italia hanno visto aumentare il loro volume d'affari e molti hanno avuto fortissimi aumenti. Quindi questo vuol dire che una parte del nostro sistema produttivo e competitivo riesce a crescere e riesce a aggredire i mercati. Quali mercati? Soprattutto quelli lontani, perché è chiaro che l'Europa sta crescendo così poco, anzi complessivamente stagnante o quasi, e quindi il mercato europeo è meno attraente, meno dinamico da questo punto di vista. Quello che però osserviamo è che chi invece si rivolge alla domanda interna soffre tantissimo, e quindi abbiamo un sistema manifatturiero spaccato in due, tra chi beneficia dell'aumento delle esportazioni e chi invece è più orientato alla domanda interna. Ora, abbiamo anche, e questo è un elemento da ricordare, avuto una riduzione fortissima delle importazioni. Col calo della domanda interna le importazioni sono crollate e non possiamo aspettarci che restino così basse. Il che vuol dire che se la ripresa in Italia diventasse anche tumultuosa, vedremmo subito le importazioni crescere nuovamente e quindi l'apporto complessivo della domanda estera netta, cioè la differenza tra aumento di esportazioni e aumento di importazioni, avrebbe un impatto molto più contenuto sul PIL, perché l'aumento delle esportazioni verrebbe in parte spiazzato, compensato dall'aumento delle importazioni. Tutto questo per dire cosa? Che per crescere a un tasso del 2-2,5%, supponiamo, abbiamo bisogno di recuperare il ruolo della domanda interna, gli investimenti, i consumi. Sugli investimenti dobbiamo anche dirci che, soprattutto l'industria, ha oggi un tasso di utilizzo degli impianti di circa il 70%, cioè c'è tanta capacità produttiva inutilizzata, e quindi prima di essere forzati a fare nuovi investimenti, le imprese dovrebbero avere un aumento della domanda molto forte, a meno che, e questo è quello che spesso si dice, le imprese non vogliano investire sulla green economy oppure sulle nuove tecnologie, cioè sfruttare questa occasione per fare un cambiamento profondo del modo di produrre. Al momento questi segnali sono molto limitati e quindi a me piacerebbe pensare anche che i nostri imprenditori, volendo investire sul futuro, potrebbero potrebbero far partire un ciclo di accumulazione di nuove tecnologie, di green technologies, indipendentemente dal fatto che la domanda oggi è particolarmente bassa. Allora, e questa storia invece che non, noi sui prezzi e l'inflazione non riusciamo proprio a incidere? Beh, questo è chiaramente, come le diceva, un elemento di inefficienza ai nostri mercati. Se guardiamo per esempio il confronto con la Germania negli ultimi 10 anni, vediamo che alcuni settori, penso alle assicurazioni, penso ai servizi finanziari, ma anche all'abbigliamento, cioè settori in cui la concorrenza internazionale, penso all'abbigliamento, la Cina e altri paesi emergenti, ma anche l'innovazione tecnologica come le assicurazioni o la finanza, avrebbero dovuto far diminuire i prezzi o addirittura tenerli stabili. Per esempio in Germania negli ultimi 10 anni il prezzo dell'abbigliamento non è sostanzialmente variato, mentre da noi sono aumentati molto. Ecco, tutti questi sono segnali evidenti di inefficienza dei nostri mercati, in particolare del terziario. Un terziario che è poco efficiente, abbiamo una produttività bassa in molti settori, un terziario che evidentemente non ha beneficiato come avrebbe potuto delle nuove tecnologie. Qui ricordo anche il ruolo dell'evasione, che è importante, perché al di là dell'equità fiscale molte imprese sopravvivono unicamente grazie all'evasione e quindi sono molto meno spinte a essere più efficienti, a cercare produttività, a cercare nuove opportunità, proprio perché riescono a sopravvivere grazie a questa distorsione. Questo è un effetto di tipo micro o di tipo strutturale che l'evasione purtroppo esercita sui nostri mercati. Allora, io ringrazio ancora una volta il presidente dell'ISTAT Giovannini per averci dato le sue equilibrate parole e di questi numeri che c'è bisogno per riflettere bene sulle cose da fare. Ci sono andamenti storici che testimoniano problemi da risolvere sull'abbattimento del prodotto potenziale e ci sono problemi aggiuntivi concentrati negli ultimi 2 o 3 anni sui tipi di mix di manovre che abbiamo fatto. Grazie a Giovannini, abbiamo avuto con noi il presidente dell'ISTAT. Questo io spero che faccia stato una volta per tutte dell'eccesso di ottimismo con cui la politica induce, qualunque sia il suo colore, dei governi pro tempore oppure di tecnici, induce sempre però a vedere le cose con una specie di lente alterata dall'ottimismo. Da una parte molti di voi dicono vabbè, ma questo insomma, se i governi non sono un po' più ottimisti, dall'altra però io credo che una delle componenti, come avete sentito, che spinge verso il basso la domanda interna, con una diminuzione dei consumi addirittura significativamente superiore alla diminuzione dei redditi disponibili, cioè l'atteggiamento psicologico delle famiglie orientate al pessimismo, alla depressione, si spiega anche col fatto che dopo anni in cui la politica ha sempre detto una cosa che non è mai stata confermata nella realtà, dopo che la politica ha detto per esempio che abbattevamo il debito in tanti anni grazie ai sacrifici, i sacrifici ci sono stati, le tasse sono cresciute sempre, anche adesso di fronte a perdita di punti di PIL, di reddito di prodotto, entrate tributarie meglio del previsto più 8,8%, continua ad andare bene solo alle casse dello Stato, e in cambio la gente vede però che noi siamo a delle rotture storiche di prodotto, di reddito e di consumi. Questo naturalmente spinge al pessimismo. Allora, questo non è un atteggiamento ingiustificato, secondo me è più che comprensibile vista la propensione del quadro politico, amministrativo e istituzionale, che è quello di continuare questa solfa di sacrifici, sacrifici, sacrifici, quando in realtà il debito pubblico, per effetto del mix sbagliato di politica di finanza pubblica, sta ancora crescendo al ritmo di quasi 200 milioni di euro ogni giorno. Questo è il punto che si tende a non dire, e su questo poi vi volete meravigliare che la crisi che si annida sul 75% del PIL, quello del mercato domestico e non di chi esporta, non diventi ulteriormente, oltre che da fattori strutturali, anche depressa da atteggiamenti psicologici di sfiducia. A me sembra purtroppo più che giustificato. Adesso spostiamo la nostra attenzione nel Nord-Est. Abbiamo con noi Daniele Marini, che è direttore scientifico della Fondazione Nord-Est. Buongiorno Marini. Buongiorno Giannino, a lei. Che ieri ha diramato uno degli indicatori attraverso i quali periodicamente ci ha abituato nel tempo a leggere l'attitudine, gli andamenti, ma anche la psicologia, cioè come gli imprenditori valutano la situazione, lo fa un paio di volte l'anno, a maggio e ottobre, e sono usciti ieri questi orientamenti degli imprenditori del Nord-Est. E anche qua c'è un dato, l'esportazione che si conferma unico motore delle imprese, ma per il momento di un cambio di segno sulla crisi del mercato domestico, almeno negli ordinativi e nell'interpretazione che ne danno gli imprenditori del nord-est, non si vedono i segni. È così a grandi linee, Marini? Sì, è proprio così. L'unico motore vero per le imprese, per il sistema economico in generale, per rimanere a galla è esattamente andare sui mercati esteri, peraltro con una complicazione in più ulteriore, qualora ce ne fosse bisogno, ed è che questi mercati non sono più i mercati europei, ma devono essere forzatamente i mercati extraeuropei, perché è vero che noi abbiamo i nostri problemi come paese, come Italia, ma in realtà ormai da diversi anni il mercato domestico delle imprese è quello europeo prevalentemente, dove avviene la maggioranza anche delle esportazioni. In questo senso si capisce perché incide sicuramente il tema della domanda interna, ma anche lo stesso, diciamo così, rallentamento delle economie più avanzate europee come la Germania ha, in un contesto come quello nordestino, dove molte imprese, soprattutto della meccanica, sono fornitori di queste delle imprese tedesche, se loro risentono, diciamo così, di un rallentamento, è chiaro che anche le imprese nordestine ne risentono, e quindi questo spinge a dover andare al di fuori dei mercati europei, perché al di fuori dell'Europa i mercati, come sappiamo, come anche i dati del Fondo Monetario Internazionale ci confermano, seppur la crescita tende a diminuire, però in giro per il mondo c'è crescita, c'è domanda, e quindi bisogna aggredire quella per riuscire a stare sui mercati. Allora, a me colpisce molto che in realtà, se noi andiamo a fare, voi proponete qui una serie trimestrale di saldi tra positivi e negativi sui giudizi nel vostro campione di imprenditori del nord-est, giudizi sull'economia italiana, europea, gli Stati Uniti, internazionale, e se andiamo a vedere questa rilevazione che fate a febbraio, giugno, ottobre del 2012, insomma ci sono 3-4 rilevazioni l'anno, il dato di ottobre 2012 che ha un saldo negativo, facendo la somma di quelli che dicono in crescita netta, in crescita leggera, stabile, leggera flessione, netta caduta, se andiamo a vedere il dato dell'ottobre 2012 con un saldo negativo di meno 85,9, quindi gli elementi di pessimismo sull'economia italiana che prevalgono tantissimo su quelli di chi pensano che ci sia un qualche, sia pur tenue, segnale di crescita, questo indicatore è praticamente, tranne quello del giugno 2012 che era a meno 91, ma per il resto resta molto più grave di quelli di settembre 2009 e così via nel triennio, quindi siamo ancora a un punto che è il più basso da che la crisi è cominciata. Quest'anno direi che rispetto a quando è iniziata la crisi è decisamente ed effettivamente l'anno peggiore. Il 2009, la fine del 2008 e il 2009 c'è stato il grande schiaffo, no? E quindi c'è stato, proprio si vede dagli indicatori, un processo di caduta verticale, poi c'è stata la leggera ripresa, ma poi dal finire del 2011 abbiamo che i dati e le indicazioni sono sempre andate peggiorando. E allora su questo, come si sosteneva in precedenza anche con Giovannini, molto probabilmente incide anche un aspetto di tipo psicologico, non soltanto un dato reale, anche perché in questo caso parliamo non solo di consuntivi ma anche di aspettative per il futuro. E questo ci dice due cose fondamentalmente, in parte sono già state sottolineate in precedenza. Allora, da un lato il fatto che non si vedono concretamente degli esiti di politiche utili a una ripresa soprattutto della domanda interna, questo è il problema principale. Il secondo elemento è che via via che ci avviciniamo alla scadenza elettorale il quadro di incertezza non tende a diminuire, anzi tende ulteriormente ad amplificarsi, e quindi in una situazione di questo genere è evidente che le prospettive per il futuro sono sempre più difficili da farsi. Prendo questo spunto da un'altra ricerca di cui abbiamo avuto già modo di parlare anche in questa trasmissione, che è l'Italia delle imprese, che è l'indagine nazionale che realizziamo annualmente, e questo è un dato rilevato a giugno di quest'anno, comparato con gli anni precedenti. Se noi domandiamo agli imprenditori quando prevedono la fine della crisi, a giugno dello scorso anno, quindi giugno 2011, c'era un risultato analogo a quello del 2010, e cioè poco più di un terzo degli imprenditori in Italia prevedeva la fine della crisi oltre un anno e mezzo. Questo vuol dire che a giugno di quest'anno, grosso modo, saremmo dovuti andare, cioè, avremmo dovuto vedere, come diceva il presidente Monti, la luce in fondo al tunnel. Ecco, fatta la stessa domanda a giugno di quest'anno, questa quota passa dal 32-33% al 51%, che dice che la crisi durerà anche oltre un anno e mezzo. Allora, questo che cosa significa? Significa che gli imprenditori, via via che passa il tempo, spostano progressivamente sempre più in là l'orizzonte della fine della crisi, che ci dice, per dirla con una battuta assai amara, è che l'unica certezza di cui dispone il sistema economico è l'incertezza, e con questo deve fare i conti. Con questo deve fare i conti, anche perché anche sulla componente internazionale, visto che la domanda estera è la cosa su quale siamo tutti d'accordo, è lì che c'è il traino maggiore dell'output potenziale del nostro paese, ma anche su quella, se si confronta le risposte, gli indicatori che vengono dagli imprenditori del nord-est, quelli di sei mesi fa, anzi febbraio del 2012 rispetto a quelli di ottobre 2012, è molto netta la percezione nel vostro campione di imprenditori che comunque il rallentamento internazionale ci sia, che in effetti rispecchia quello che avviene, confermato su molti indicatori. Cioè l'eurocrisi è riuscita ad attenuare il tasso di crescita, purtroppo, degli emergenti e delle locomotive, e questo nella risposta dei vostri imprenditori è molto netto, perché c'era un saldo positivo di più 54,8 su andamento dell'economia internazionale a febbraio di quest'anno, e a ottobre è diventato solo di più 35,5. Certo, rispecchiano ovviamente quello che sta succedendo sul piano internazionale. E da tenere presente poi che questi dati ci raccontano anche di altri due elementi interessanti da un certo punto di vista, e dall'altro anche preoccupanti, e cioè che ritorna su questo aspetto il tema della dimensione delle imprese. Cioè, per affrontare mercati che siano extra UE, cioè che si vada oltre l'Europa, La scala dimensionale patrimoniale deve essere adeguata, certo. Bisogna avere un certo physique du rôle. Diciamo, e il secondo? Il secondo elemento invece è che i processi di internazionalizzazione, stando agli ultimissimi dati rilevati, sembrano, come dire, un po' rattrappirsi, cioè c'è questa presenza sui mercati esteri, ma si cerca di ridurre al massimo i costi. Questo è il tema. Quindi vuol dire che si aprono meno imprese all'estero, si riduce anche, seppur di poco, ma si riduce anche la presenza di filiali estere, di rappresentanti all'estero, cioè di riuscire ad arrivare al cliente finale, perché questo ha dei costi. E siccome le imprese nel paese hanno costi eccessivi, ecco che questo rischia di essere anche un rischio per la capacità di tenere sui mercati esteri. Ed è l'esatto opposto di quello di cui ci sarebbe bisogno, naturalmente, quello di tagliarsi possibilità per stare sui mercati quando sono quelli il traino. Per un paese manifatturiero che esporta, con la seconda vocazione manifatturiera in Europa, essere costretti a queste strategie di taglia costi ed avere meno grip sui mercati stranieri è l'esatto opposto di quello che serve. Anche su questo il mix di politiche di bilancio di questi anni, che dicano, a mio giudizio, quelli del governo tecnico, hanno ottenuto l'effetto opposto rispetto a quello a cui bisognava invece puntare. È lo Stato che deve pagare con i suoi attivi il suo debito, non fare la spremuta fiscale. Purtroppo il cambio di passo su questo non c'è stato. Grazie a Daniele Marini, direttore scientifico della Fondazione Nord-Est. Eccoci qui, e mentre riparte Disidenza sentiamo direttamente come la pensate voi. Cominciamo con Daniela dalla provincia di Napoli. Prego, Daniela. buongiorno. Volevo sollevare il problema sulla faccenda così della novità dell'IMU sugli appartamenti. Si deve tenere presente, mi sembra che non sia sufficiente, a parte le persone singole o che sono soli, i pensionati, è noto, anche se a volte si passa come un paese di spendaccioni, che invece vengono investiti i soldi, tanti risparmi, con sacrifici ovviamente, perché altrettanto non è vero che nessuno paga le imposte e tasse, compresi i professionisti quali sono io, che li ho sempre pagate, e vengono comprati proprio per tenere un futuro un po' sereno degli appartamenti. Ho sentito parlare un professore che conosco peraltro, che dice che poi vengono ribaltati in questi momenti sugli inquilini, cosa non esatta, perché a Roma per esempio, dove abito, sono tantissime le persone che hanno diminuito gli affitti, e questo esagerato aumento dell'IMU va a colpire proprio tantissime persone che hanno fatto questo tipo di investimenti per supplire delle pensioni che sono abbastanza modeste generalmente, non siamo tutti dirigenti dello Stato, certo, con grosse, e quindi la mia telefonata è tale proprio perché per sollevare seriamente il problema, anche perché se uno volesse vendere l'appartamento non lo vende, per cui succede, certo, il fatto che uno deve pagare un IMU molto costosa e magari non ha i soldi, va a finire che verrà venduto all'esecuzione immobiliare. Allora Daniela, il problema della tassazione patrimoniale rischia con le prossime politiche di diventare poi un problema aggiuntivo, perché c'è chi pensa di risolvere l'eccesso di debito pubblico italiano rispetto alla media degli altri paesi con una addizionale patrimoniale a vostro carico. Pensateci bene nei prossimi mesi per vedere che cosa scegliere, perché vi diranno che non c'è alternativa, e non è vero, perché è la solita storia di dire che è lo Stato che non deve cedere del suo. Però attenzione, perché il problema che pone Daniela, di un problema che ha nel suo patrimonio uno dei punti di forza per reggere redditi disponibili che diminuiscono, dire che bisogna tassare ancora di più quella patrimoniale, lo ha detto per esempio De Benedetti in televisione, Carlo De Benedetti, due sere fa, è un'ulteriore conferma secondo me di non saper fare la matematica, ecco, per così dire, al netto di poi di dirlo quando si pagano le tasse altrove, come nel suo caso. Salvatore dalla provincia di Cosenza, prego Salvatore. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, la seguo sempre, dottor Giannino. Io volevo dire, sono un consulente IT e ho diversi clientele sia nella piccola e media impresa dalle mie parti sia nel privato. Salvatore, diversi clienti, perché se mi dici diverse clientele vuol dire un'altra roba. Ha ragione, diversi clienti in diversi settori della società civile, e purtroppo quello che si faceva poco fa riferimento alla diminuzione del reddito disponibile per il risparmio è purtroppo una conseguenza non tanto del fatto che in questi ultimi tempi ci si sia reso conto della crisi, che sicuramente la popolazione si è resa conto già da prima, ma purtroppo queste manovre depressive che il governo in corso d'opera hanno ridotto così sensibilmente la possibilità di poter risparmiare, per cui le famiglie purtroppo hanno veramente raschiato il fondo e non possono fare altrimenti se non quella di non mettere da parte nemmeno un euro, per non dire una vecchia lira. Salvatore, in effetti quando il tasso di risparmio scende di 12-13 punti rispetto alle medie quando le famiglie erano cicale, siamo all'8%, io sono d'accordo con te, è proprio questo, l'enormemente accresciuta partita fiscale dello Stato, molto di più che in tutti gli altri paesi europei sottoposti a programmi di rientro. Sentiamo ancora Mauro da Vercelli. Prego Mauro. Buongiorno, io sono un piccolo imprenditore del Vercellese che lavora con il riso e con prodotti particolari per l'esportazione. Abbiamo dei contratti in essere verso il Giappone, verso il Sud America, verso il Brasile. Quindi esportate, ve la dovreste passare relativamente bene, insomma. Esatto, no, il mercato è molto attivo. Il problema fondamentale dell'imprenditoria italiana nell'esportazione è la lentezza burocratica dei vari ministeri che devono concedere autorizzazioni, devono concedere, rilasciare delle certificazioni, e il sistema bancario che a fronte di contratti in essere, pronti da essere spediti, di circa 400.000 euro, non danno la possibilità di accedere al minimo finanziario del 70, 80, 100.000 euro per rinnovo macchinari, esatto, quindi per aumentare la produttività. E questo a fronte di una dozzina di persone che lavorano per l'azienda. Allora, questo che significa? Che noi possiamo pensare di continuare ad andare bene sui mercati, ma se poi il sistema paese, nel credito, nelle tasse, nella pubblica amministrazione, ci spezza le gambe di fronte ai concorrenti, dove pensate che possiamo andare? Per quanto tempo? Ecco, questa è la vera risposta.